Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Gentile direttore, le scrivo da Lugano, dove risiedo da 5 anni. Vorrei farle conoscere il mio punto di vista sia sulla nuova polemica sui permessi di soggiorno, sia sull'Italia in sé vista dall'estero, anche se molto vicino. Per vivere in Svizzera ho un permesso di soggiorno annuale, tipo B, dopo aver avuto 3 anni di permesso temporaneo, tipo L. Sono praticamente come un extracomunitario in Italia. Tale permesso mi costa 68 franchi svizzeri, circa 45 euro per ogni modifica. Nel corso del 2008 ho fatto 2 modifiche, stato civile e residenza, per cui ho pagato 90 euro. Cosa c'è di scandaloso? Quale tipo di razzismo presuppone pagare un servizio pubblico? Pago il parcheggio, il benzinaio, l'autobus, il macellaio. Perché la Svizzera o Italia dovrebbe essere razzista se mi fa pagare il servizio? È razzista il consolato di Lugano che mi chiede 140 franchi svizzeri, circa 93 euro per rifare il passaporto? In Italia, quando scade la patente, non viene chiesto un pagamento. È razzista la motorizzazione. Perché si tira fuori il razzismo? Cosa c'entra? Va detto però che io ho pagato volentieri le tariffe, perché con soli 5 minuti di coda per consegnare i moduli, l'ufficio stranieri ha poi provveduto a inviarmi il permesso nuovo via posta, mentre in Italia bisogna mettersi in coda alle 5 del mattino alla prefettura. Cordiali saluti, Giancarlo. Siamo stanchi di essere trattati come animali. Dal mio punto di vista, sono extracomunitario, essere straniero non sminuisce la mia dignità umana o il valore della vita. Piuttosto mi viene da notare che ogni volta che il governo italiano è in difficoltà, usa sempre l'immigrato come soluzione. Prima non ha saputo fare niente per favorire davvero l'integrazione e adesso, peggio ancora, vorrebbe cercare soldi da noi immigrati, facendo una politica discriminatoria. Secondo me sta commettendo un errore ancora una volta. Ogni volta che si trova nei guai lo Stato italiano cerca di politicizzare la questione degli immigrati. Secondo me sarebbe meglio trovare soluzioni piuttosto che dare la colpa a quelli che già fanno fatica a vivere, cioè noi immigrati. Mi domando anche perché i giornalisti italiani non fanno come i giornalisti americani, francesi, inglesi. Perché insomma non cercano la vera verità, senza propaganda. Gli italiani ne hanno diritto. Certo, le cose non vanno bene, ma non è colpa degli immigrati. È facile parlare per ingannare la gente. Molto più difficile è fare le cose giuste nell'interesse generale. Grazie. Lettera firmata. Faccio riferimento alle scritte apparse sugli autobus di Genova in cui si declama l'inesistenza di Dio e il conseguente atteggiamento di vivere liberi da questo fardello. Io che sono credente, non posso che sorridere di fronte a questa posizione e nemmeno mi scandalizzo più di tanto perché, da sempre, molti non hanno voluto accettare la realtà di un creatore del mondo in cui viviamo e dell'universo in cui siamo immersi. Eppure, se si scarta questa ipotesi del creatore, mi piacerebbe che mi si spiegasse com'è venuta all'esistenza tutta la materia che vediamo con i nostri occhi. Sarebbe come se noi, guardando un televisore o un computer, affermassimo che ci sono perché esistono da sempre. Comunque sono convinto che quanti leggeranno il messaggio sull'autobus saranno costretti, con buona pace degli atei, a farsi qualche domanda in proposito e a darsi anche qualche risposta, magari in contrasto con quanto reclamizzato. Quindi grazie, signori atei. Ci voleva proprio, in questo mondo distratto da tante cose, qualcuno che agitasse le acque delle coscienze, prede ormai di un'indifferenza sempre più dilagante su tali fondamentali questioni. Fabio. Gentile direttore, sono un impiegato, vivo a Quinto di Valpantena, provincia di Verona, e ogni mattina mi reco in ufficio a San Martino Buonalbergo, sempre in provincia di Verona. La partenza dalla mia abitazione è solitamente dalle 7.20 alle 7.30, ora di solito molto trafficata nel tratto della confluenza che va da Quinto fino all'imbocco con la tangenziale a Poiano. Il limite di velocità del tratto di strada da Quinto a Poiano è di 50 km orari, mentre nel tratto in tangenziale da Poiano a San Michele è di 110 km orari. Sono di carattere molto tranquillo e tutto sommato rispettoso delle regole stradali. Possiedo una piccolissima utilitaria che certo sfigura rispetto a certi SUV o grandi ammiraglie. È capitato che la mia macchinetta si sia trovata a dover fronteggiare una grossa Audi grigio scura che, ad andatura ben oltre i limiti, Sia sulla provinciale che in tangenziale, si voleva far strada a tutti i costi, con ampio uso dei fari abbaglianti e uso di luce lampeggiante blu posto sul tetto dell'auto. A dire il vero, gli incontri con la misteriosa Audi sono rari e sporadici e spiace vedere all'interno della vettura, guidata da un autista di servizio, il sindaco di Verona Tosi. Non me ne voglia il nostro esuberante sindaco. Sicuramente in viaggio sarà assorto nel programmare la giornata di lavoro o ad altro. Ma dia pure una bonaria bacchettata al suo autista, perché le regole sono uguali per tutti e il codice della strada prevede l'uso dei fari abbaglianti, lampeggiante e sirena solo in pochissimi casi di manifesta urgenza. E dunque, siccome non è obbligatorio dare strada, signor sindaco, se vede una piccola utilitarietta che ostinatamente non accosta, mi spiace tanto, non si offenda, ma è la mia. Valentino. Sono un impiegato dipendente di azienda privata. Ci tengo a dirlo perché ritengo che nei momenti di profonda crisi come quella in cui stiamo vivendo, il dipendente del settore privato rischia ancora una volta di subirne tutti gli effetti e di vedere come il dipendente del settore pubblico mantenga inalterati tutti i suoi diritti e le sue tutele. Chiaramente non ne faccio una colpa al dipendente pubblico in quanto tale, ma al sistema della macchina pubblica. Se un'azienda privata attraversa momenti di difficoltà, suoi o dell'intero mercato, adotta una serie di accorgimenti, quali il riposo forzato o, nella peggiore delle ipotesi, il licenziamento per i dipendenti, ricorrendo, se può, agli ammortizzatori sociali, che a lungo andare saranno, per importo, equivalenti a dei sussidi sociali sufficienti per la sola sussistenza. Tutto questo per evitare, secondo una logica dettata dall'interesse, di sostenere dei costi impropri. Il datore di lavoro non paga infatti i dipendenti che non producono. Per il settore pubblico tutto questo non vale. È risaputo che il dipendente pubblico, non lavorando sotto il presidio del datore di lavoro, gode di maggiore discrezionalità nel gestirsi il tempo di esecuzione delle proprie mansioni e gode di maggiore libertà. Chiaramente l'insieme delle attività svolte dal settore pubblico in molti casi non vanno misurate in termini di redditività, ma in termini di efficienza. In Italia c'è la spesa, ma non c'è la qualità della vita che la stessa potrebbe generare. Nei momenti di crisi mi chiedo quale sia il senso di responsabilità di chi deve e può entrare nel merito delle cose importanti e quindi sul come si spendono i soldi, sull'entità della spesa pubblica e soprattutto se ci possiamo ancora permettere tutta questa spesa. Lo Stato rischia di trovarsi a non poter garantire lo stipendio ai dipendenti pubblici, con tutto quello che ne consegue. Sono un semplice cittadino e posso sicuramente sbagliarmi, ma mi è stato insegnato che se una cosa non la puoi avere subito, perché non ne hai i mezzi, è meglio aspettare. Dino, Trento. Roma è una città che con la sua storia e le sue antichità offre le maggiori attrazioni al mondo per i turisti, i visitatori e i romani stessi. Andrebbe solo ben manutenuta e sottratta al crescente degrado fatto di buche, di traffico, di disorganizzazione, di indiscipline e di immane sporcizia. È per questo, oltre che per la riqualificazione delle periferie, che andrebbero impiegate le poche risorse disponibili e non per opere dai nomi altisonanti ma completamente inutili, quali a mio avviso sembra essere quella del pedonale Ponte della Musica che, se realizzato, andrà ad aggiungersi ai 28 ponti di Roma. Il Ponte della Musica è previsto per collegare Piazza Gentile da Fabriano con il lato opposto del Tevere in corrispondenza dello Stadio del Nuoto o giù di lì. Nella stessa zona, in uno spazio di 2600 metri, ci sono già Ponte Flaminio, Ponte Milvio e Ponte Risorgimento. Ponte Milvio, utilissimo ponte pedonale. Gli altri di grande utilità per il traffico automobilistico. Il solo ponte Duca d'Aosta vede occasionalmente transitare a piedi i tifosi, che, lasciata l'auto o scesi dall'autobus, si recano allo stadio olimpico. Ma dove andranno e da dove verranno i pedoni che, in entrambi i sensi, attraverseranno il Ponte della Musica, se mai lo attraverseranno? Quale utilità ne trarranno Roma e i romani? È ragionevole spendere 6-7 milioni di euro e forse più del magro bilancio comunale? Lucio. Mi chiamo Matteo Bertolotti. Sono un trentenne impiegato in un'agenzia di comunicazione e pubblicità. Anche se non ho mai avuto tessere di partito, mi sono sempre interessato di politica, diciamo un po' per tradizione familiare. Mio nonno e mio padre erano militanti socialisti. Qualche giorno fa ho seguito l'intervento di Veltroni a Ballarò. È stato per me qualcosa di imbarazzante. Provo a spiegare il perché. Non mi sono attardato ad ascoltare tutta la trasmissione, ma mi sono comunque fatto un'idea sul Veltroni pensiero. Le domande poste dai giornalisti vertevano principalmente sui problemi interni del PD, soprattutto circa la possibilità di un cambio di guida e sull'alleanza con Di Pietro. Ebbene, come rispondeva il leader dell'opposizione? Semplicemente eludendo le questioni, dicendo per esempio «si discuterà sulla leadership» o «attaccando Berlusconi, non presente», sostenendo che nel PDL sarebbe stata impossibile una qualsiasi discussione in quanto esso è un partito di proprietà. Oppure sostenendo che l'alleanza con Di Pietro non è stata dettata da convenienza politica, salvo poi affermare che l'opposizione dell'IDV, per toni e per contenuti, non è il tipo di opposizione che si addice al PD. Ma come? Veltroni dice che il PDL non è un partito democratico. Veltroni dice che l'Italia è a rischio regime. Veltroni dice che l'aumento dell'IVA a Sky è un attacco alle famiglie italiane. Veltroni dice che la questione morale è solo del centrodestra e chi più ne ha più ne metta. A questo punto mi chiedo, che c'è di diverso da quanto sostiene Di Pietro tutti i giorni? Sono esattamente gli stessi argomenti e gli stessi toni. La partecipazione di Veltroni a Ballarò assumeva poi toni melodrammatici quando è giunto ad affermare che il PD era il suo sogno nel cassetto fin da quando era un giovane militante comunista. Ballarò ha poi mostrato l'indice di gradimento del PD. Solo il 25% degli elettori lo voterebbe. Secondo me non c'è da stupirsi perché non credo di essere l'unico a registrare tutte le contraddizioni di Veltroni e del suo partito. Cordialmente, Matteo. Caro direttore, voglio unirmi a tutti coloro che, prima di me, le hanno inviato il proprio commento alla chiusura della vicenda all'Italia. Le mie considerazioni forse non saranno originali, ma spero contribuiscano a sottolineare le incoerenze e le contraddizioni di questo pasticcio italiano. Leggo che i giornalisti francesi, normalmente critici verso il premier Berlusconi, si stanno prodigando in ringraziamenti per come, parole del ministro Brunetta, la privatizzazione di Alitalia è stata conclusa. E come potrebbero non essere grati i francesi dopo aver pagato 300 milioni il 25% di Alitalia senza debiti e senza esuberi, invece di pagare 1,5 miliardi per una compagnia carica di debiti e di personale? E chi può avere dei dubbi che, tra 4 anni, qualcuno degli imprenditori italiani, che certo aviatori non sono, non abbia la tentazione di realizzare una plusvalenza dando modo ad Air France di accrescere la propria quota fino al 51%? A questo punto mi auguro che in futuro non si debba più difendere l'italianità delle nostre aziende, altrimenti ci ritroveremo nella situazione paradossale di avere file di investitori stranieri pronti a darci una mano. Cordiali saluti, Gabriele. Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Prendo spunto dalla tassa sul permesso di soggiorno per alcune considerazioni sull'immigrazione. Premetto di non avere una visione romantica del multiculturalismo. Chi si sposta dal proprio paese per venire nel nostro di solito lo fa per necessità e con dolore. È una cruda realtà. Loro hanno bisogno di un lavoro e noi di loro, per svolgere tutta una serie di attività che il nostro benessere ci porta a rifiutare, ma che sono esse stesse necessarie per la sopravvivenza della nostra società. Non credo quindi che sia necessario amare gli immigrati, ma neanche prenderli a sportellate, come vuol fare la Lega Nord. In linea di principio sono d'accordo che ciascuno debba pagare per i servizi che riceve. Quindi, in teoria, la tassa sul permesso di soggiorno avrebbe la logica di coprirne i relativi costi. Se però accettiamo questo principio, che cioè ciascuno paga i servizi di cui usufruisce, deve valere anche il principio opposto, e cioè quello per cui non si paga ciò di cui non si gode. Gli stranieri che lavorano e risiedono regolarmente nel nostro paese pagano tasse, imposte e contributi con le stesse aliquote dei cittadini italiani. I loro soldi servono, tra le altre cose, a pagare i costi della politica, quindi anche gli stipendi di Bossi, Maroni, eccetera. Però non hanno diritto di voto, neanche se risiedono in Italia da anni, nemmeno per gli enti locali. Non possono, quindi, scegliere chi li rappresenta e chi è deputato a spendere i loro soldi. Non sarebbe quindi giusto, per un principio di equità, esentarli da questo costo? E che dire della social card, pagata con i soldi della fiscalità generale, quindi anche dalle imposte degli stranieri, ma riservata solo ai cittadini italiani? La lista potrebbe continuare. Lo Stato non ha speso soldi per la loro istruzione, essendo la maggioranza di loro arrivata in Italia già adulta. Spende poco per la loro salute, in quanto mediamente si tratta di gente giovane e sana. Costano poco anche in termini di ordine pubblico. Bisogna infatti sfatare il falso mito che gli stranieri delinquono più degli italiani. Da dati pubblicati sul Sole 24 Ore, un paio di anni fa, risultava che la percentuale di crimini commessi da immigrati con regolare permesso di soggiorno in rapporto al loro numero è molto più bassa di quella commessa da cittadini italiani. Sono gli stranieri clandestini che delinquono molto e rappresentano un problema sociale. La lotta alla clandestinità era stato uno dei cavalli di battaglia su cui la Lega aveva costruito la sua vittoria elettorale. Ma dopo i roboanti proclami dei primi giorni, poco si è fatto e la situazione è addirittura peggiorata. Gli sbarchi a Lampedusa si sono intensificati e niente sembra potervi porre un freno. È forse questa bruciante sconfitta, sotto gli occhi di tutti, che sta portando Maroni e compagnia a spostare la loro attenzione sugli immigrati regolari. È una sorta di sindrome da frustrazione e una pseudo furbata verso il loro elettorato più becero. Non sono riusciti a bloccare i clandestini, così adesso tiranneggiano i regolari per far vedere che fanno qualcosa. Una mossa che ricorda tanto il facita Muina di borbonica memoria. Cordialmente, Francesco, Torino. Caro Francesco, condivido in gran parte le sue osservazioni. L'immigrazione è di fatto una realtà che ha aiutato l'Italia in questi ultimi anni soprattutto a mantenere viva la sua attività economica, a colmare le carenze dei servizi sociali, pensiamo al ruolo fondamentale delle badanti per l'assistenza agli anziani, a colmare i vuoti per molte tipologie di lavori. Gli immigrati sono anche diventati imprenditori nel commercio, così come nell'artigianato e nei servizi. Certo, è necessario che questi stessi immigrati rispettino le regole e, fin dove è possibile, anche gli equilibri sociali. La grandissima parte chiede di integrarsi, se non negli stili di vita, almeno in una serena e tollerante convivenza. Questo è possibile se si affrontano con realismo i problemi. E una società è veramente libera se offre a tutti le stesse opportunità e se chiede a tutti gli stessi doveri. È banale, lo so, ma vero è che l'unico modo per evitare la guerra è non farla. Altrettanto vero è che, come ha scritto anche Sergio Romano, se non sbaglio, la colpa più grave è sempre di chi inizia una guerra. La vedo così anche riguardo all'Alitalia, nel senso che mi sembra riduttivo dire non si possono fare certi scioperi danneggiando tutti, perché credo si debbano sempre guardare i fatti nella loro totalità. Se qualcuno fa sciopero, se qualcuno si difende, persona, popolo o chiunque sia, non si può solo criticare il modo, ma bisogna considerare che reagisce ad una ingiustizia e va compreso. Se male non si fa, male da me non avrai, si dice, o no? Chi si difende ha sempre più ragione di chi offende, comunque vada, pur negli errori commessi. Grazie, Raffaele. Caro direttore, volevo fare un piccolo intervento sulla questione Battisti. Qualche giorno fa, durante la zanzara, Giuseppe Cruciani ci ha fatto ascoltare un intervento dello scrittore Henry De Luca. In quell'intervento, lo scrittore affermava che era suo desiderio che tutte le pendenze penali relative al terrorismo e agli anni di piombo fossero definitivamente considerati un caso chiuso. Mi chiedo se il buon De Luca la penserebbe così anche se Battisti fosse un ex terrorista nero piuttosto che rosso. Mi sembra che continui sempre ad esserci, da parte di alcuni irriducibili, un certo giustificazionismo e perdonismo verso certi terroristi piuttosto che altri. Lula avrebbe negato l'estradizione per un terrorista nero. E la dottrina Mitterrand valeva e vale anche per i terroristi neri. Per alcuni, in definitiva, qualsiasi nefandezza compiano, sono sempre e solo dei compagni che sbagliano. Buon lavoro e cordiali saluti. Federico. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it o agli indirizzi dei singoli programmi. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.